Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it. Roma, la Chiesa nella città. Bentornati, qui Fabrizio Mastrofini e un cordiale saluto a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori. Vi ricordo la pagina Facebook della trasmissione Roma, la Chiesa nella città. Siamo in compagnia anche oggi del professor Emanuele Castelli, docente a Basilea. Il professor Castelli è storico della Chiesa antica e filologo classico, ricercatore all'Università di Basilea nell'ambito del progetto europeo per la digitalizzazione e lo studio dei manoscritti greci del Nuovo Testamento, dai primi papiri del III secolo sino a Erasmo e al Rinascimento. Abbiamo cominciato con il professor Castelli un percorso sulle origini cristiane a Roma, cercando di capire cosa sappiamo della primitiva comunità e della presenza degli apostoli Pietro e Paolo. Siamo passati poi ad approfondire alcuni aspetti legati alle persecuzioni, correndo, per così dire, fino al III e al IV secolo. In una seconda parte siamo ritornati a Roma negli anni 60 dell'era cristiana, con la morte dell'apostolo Pietro e dell'apostolo Paolo. Abbiamo parlato tra l'altro della memoria dell'apostolo Pietro che si trova sotto la Basilica di San Pietro, riportata alla luce questa memoria dagli scavi del secolo scorso. Con il professor Castelli abbiamo discusso le diverse ipotesi che sono state fatte e comunque, abbiamo detto, le posizioni degli storici e degli archeologi non mettono in discussione la fede ed il fatto che una memoria dell'apostolo Pietro sia lì e sia stata tramandata fin dall'inizio del cristianesimo. E proprio da qui adesso prendiamo lo spunto per parlare delle questioni organizzative del cristianesimo e della Chiesa in quei primi decenni. Se ci focalizziamo sul secondo secolo, sì. Lei l'altra volta terminava dicendo un gruppo di presbiteri probabilmente gestiva la comunità. Ecco, come si è passati da un gruppo di presbiteri all'idea di avere un capo, cioè il vescovo? Cioè un vescovo, e poi che poi è diventato anche il vescovo di Roma, quindi diciamo questo passaggio come si immagina, come si struttura. E poi quali fonti abbiamo? Sì, grazie per la domanda. Allora, per ciò che concerne le fonti, noi dobbiamo tenere presente che questa graduale evoluzione da un'organizzazione di carattere presbiteriale a un'organizzazione fondata sul vescovo, che è a capo di tutta la comunità, anche a capo del collegio dei presbiteri, è un processo che caratterizza il cristianesimo a Roma, grosso modo per tutto il secondo secolo e fino ai primi decenni del terzo secolo, almeno fino al 230-240. Le fonti che noi abbiamo per ciò che concerne il secondo secolo, disponiamo di un importante scritto cristiano composto da Erma, che era considerato un profeta, diciamo un rappresentante del profetismo a Roma. Questo scritto più o meno è stato composto intorno al 140. Poi abbiamo una serie di notizie che ci riferisce lo storico Eusebio agli inizi del IV secolo, ma sono notizie frammentarie che lui ricava da documentazione del II secolo, ma ripeto, diciamo, ce le fornisce lui, ma sono brevi frammenti. E poi abbiamo una terza fonte di informazioni, che questa invece è di eccezionale importanza, che è la cosiddetta Confutazione delle eresie, scritta da un personaggio che nell'ultimo secolo si riteneva e si chiamava Ippolito di Roma. Poi gli studi degli ultimi anni hanno dimostrato che in realtà non siamo sicuri che questa Confutazione delle eresie sia stata scritta da un personaggio di questo nome. Quello che però che è sicuro è che il suo autore viveva a Roma, viveva nei primi decenni del III secolo ed è stato testimone del consolidamento dell'episcopato monarchico In più, diciamo, di tutta una serie di scontri che si sono, diciamo, consumati per permettere questo tipo di consolidamento. Allora, queste sono le fonti. Per ciò che invece concerne il passaggio, ecco, la prima cosa Ecco, che... scusi, la interrompo, professor Sì. Castelli. Per i nostri ascoltatori, stiamo cercando di mettere a fuoco questo passaggio, no? Tra un gruppo di presbiteri, un vescovo, un papa. Diciamo, questa è la linea, no? Che cerchiamo di... E poi le chiederei ancora, perché noi stiamo parlando su Roma, ma poi questa è un'evoluzione legata poi in tutto il resto della Chiesa, no? Sì, allora come dicevo, quindi questo processo a Roma è durato per un tempo considerevolmente lungo, molto lungo, cioè tutto il secondo secolo e almeno i primi decenni del terzo, questo passaggio. Come davvero si sia passato, quali fattori abbiano spinto ad abbandonare un sistema di governo della comunità per arrivare a un altro, quello né per Roma né per altrove lo conosciamo. Quello non lo conosco. Si sono fatte varie ipotesi, ma noi non lo conosciamo. In più, come lei diceva, questa forma di governo non ha ovviamente caratterizzato soltanto la città di Roma, ma anche altri ambiti del cristianesimo. E qui c'è un secondo punto importante da toccare, cioè che il passaggio dall'organizzazione presbiteriale a quella episcopale, a quanto ci costa? È avvenuto prima in altre sedi, per esempio Antiochia, e poi a Roma, o almeno a Roma, poi a Roma solo più tardi, solo con più lentezza, con più fatica è stato possibile realizzarlo. All'inizio del secondo secolo, ad Antiochia, sappiamo che c'è un vescovo, un personaggio a capo della comunità, Ignazio, e lui dalle lettere risulta chiarissimo che anche in altri centri, diciamo, dell'Oriente Mediterraneo, questo tipo di governo aveva incominciato a funzionare. Ma come? Come in tutti i passaggi da un governo a un altro, sempre con dei problemi, sempre con dei contrasti, sempre con chi era rivolto con un occhio al passato e un occhio al presente e faceva fatica ad abbandonare il passato per il presente. Infatti Ignazio, in una delle sue lettere, prima di essere portato a Roma, insomma, per il supplizio, lui a un certo punto scrive ad altre comunità, gli raccomanda di rispettare il vescovo perché il vescovo è in rapporto ai presbiteri e alla comunità, come Gesù era in rapporto, diciamo, ai suoi discepoli. Quindi, diciamo, Ignazio cerca davvero di dare anche un fondamento e un rafforzamento scritturistico a un'innovazione che evidentemente si era realizzata, ma, diciamo così, con fatica. A Roma questa fatica è stata doppia, tripla. Perché? Per quello che ci siamo detti nelle scorse puntate sulla condizione particolare del cristianesimo nella città, che era una città immensa, raccoglieva una città immensa che aveva una caratteristica: non solo l'annuncio si era diffuso tra già residenti nella città, ma poi c'erano tanti altri credenti che venivano dall'Oriente. Venivano dalla Siria, dall'Asia Minore, dall'Egitto ed erano già cristiani prima di arrivare a Roma. E una volta arrivati a Roma, che facevano? Si riunivano, si, diciamo, organizzavano con altri personaggi che venivano dalla loro stessa terra, cercando di mantenere le loro tradizioni, la loro lingua, le loro abitudini, anche sul piano liturgico, anche nel modo di considerare la Sacra Scrittura, anche nel modo di guardare alla tradizione giudaica. In breve, qual era la situazione? La situazione che rispetto a un piccolo centro come poteva essere Corinto, qui invece quello che noi chiamiamo Chiesa di Roma, Comunità di Roma, era invece una realtà estremamente frastagliata. Se noi vogliamo, diciamo, mantenere l'idea di una comunità, dovremmo dire che c'erano tante comunità all'interno di un perimetro più grande, insomma. Vorrei approfondire da un altro punto di vista questo che lei sta dicendo. Qual era il filo conduttore? Il filo conduttore, per esempio, poteva essere, certamente erano tutti cristiani perché credevano tutti in Cristo, ma il filo conduttore poteva essere, ad esempio, la liturgia, Ma che tipo di liturgia? Che cosa sappiamo anche di questo, professor Castelli? Che celebravano, insomma. Sì, certamente il fattore centrale di unità dei credenti in Gesù è il fatto che Gesù li salva dal peccato e dalla morte, li redime. Insomma, questo, diciamo, è il dato centrale. Poi le differenze nel secondo secolo erano su vari punti di vista, anche sul modo di recepire le scritture giudaiche, cioè quello che noi chiamiamo Antico Testamento. Certo, la liturgia era, lo spezzare il pane era il dato centrale della comunione della comunità. Però ripeto, diciamo, sono informazioni che noi fortunatamente abbiamo, sappiamo. Abbiamo anche un passo famoso di Giustino che ci informa su di Giustino il martire che morirà a Roma agli inizi della seconda metà del secondo secolo, intorno al 160, che ci informa anche sulla prassi liturgica. Però poi, accanto a questi momenti certamente decisivi in cui si riunivano i cristiani, essenzialmente per lo spezzare il pane e certamente anche per la lettura dei testi sacri, per la lettura delle memorie degli apostoli e anche, diciamo, per un'esortazione che dava il presidente dell'assemblea, poi c'erano delle differenze. E la maggiore, una, forse quella che fu sentita come la più grave intorno alla metà del secondo secolo, fu proprio di natura liturgica, quello che lei stava dicendo, e riguardava la data di celebrazione della Pasqua. Se cioè questa dovesse essere fatta secondo l'uso giudaico, oppure se dovesse essere trasportata alla domenica e soprattutto quale significato dare alla Pasqua. Nel senso giudaico, dare alla Pasqua c'è cioè un significato di Pasqua di passione, cioè Cristo è l'agnello che ha sofferto per tutti, e in questo diciamo mantenere una radice più profonda, insomma, un legame più profondo, insomma, con la radice giudaica, oppure considerare la Pasqua come un momento di resurrezione, di salvezza. Quindi due concezioni diverse, Pasqua di resurrezione e Pasqua di passione, che però si riflettevano anche liturgicamente, anche dal punto di vista del calendario, nella scelta della data di questa Pasqua. Mantenere, diciamo, le indicazioni di carattere giudaico, oppure proprio per distanziarsi da questo tipo di retaggio giudaico, celebrare la Pasqua alla domenica. In altre comunità questo tipo di frattura non si avvertiva, perché un piccolo centro come Corinto, non esposto sostanzialmente a tradizioni di altro tipo, tutti la celebravano lo stesso giorno, o in un senso o in un altro, ma tutti lo stesso giorno. Ma a Roma, dove invece c'erano rappresentanti che avevano importato le loro tradizioni, la loro sensibilità, il loro modo di interpretare l'evento centrale, insomma, del Kerygma, cioè la morte e la risurrezione di Gesù, quel conflitto fu palese e si manifesta, diciamo, immediatamente la necessità di trovare una soluzione a questo conflitto. E nel cristianesimo antico, nel secondo, come poi anche successivamente, qua succede spesso che vari gruppi vivono secondo le loro tradizioni, ma poi quando uno pone la questione di quale è quella giusta tra queste tradizioni, allora a un certo punto sono tutti determinati a trovare una soluzione, una, il che vuol dire esclusione totale dell'altra. È proprio nell'ambito di questa dinamica che noi abbiamo le notizie, le prime significative notizie su una figura che è a capo della comunità. Sappiamo che un personaggio di nome Aniceto, intorno alla metà del secondo secolo, si era posto come rappresentante tra una tradizione, diciamo così, romana della celebrazione della Pasqua domenicale e un'altra tradizione che veniva dall'Asia Minore e che invece era molto più giudaizzante. Ma la figura centrale in tutta questa controversia poi non la troviamo qualche decennio più tardi, intorno al 180-190, ed è Vittore. Questo è il primo personaggio di cui possiamo dire con sicurezza che ricopre il ruolo di vescovo della comunità. lo ricopre a tutti gli effetti, cioè non solo di nome, ma anche di fatto, anche per le decisioni che prende nella comunità. A quello che sappiamo, a Roma, proprio per lo stato che ho descritto, si era stati sempre di manica larga, era stato necessario tollerare tante diversità. Vittore è il primo a imporre una linea ben determinata e a quello che sappiamo, non lo fa solo sul lato liturgico, incomincia, diciamo così, a distinguere il grano buono dalla zizzania anche su altri aspetti, anche per esempio sul lato dottrinale, perché diciamo anche nel come interpretare la figura di Gesù, in che senso egli è Dio, come partecipa della divinità col Padre, anche su questo c'erano problemi. Quindi, nell'ambito di controversie liturgiche e poi anche dottrinali, nelle fonti che ho prima sommariamente descritto, incominciamo a vedere concretamente emergere la figura di un vescovo a capo della comunità. Ma quello che poi a un certo punto più si concretizza nelle fonti e che raramente poi viene toccato anche, diciamo, nella manualistica moderna, è che la figura del vescovo, oltre a toccare questioni di carattere liturgico e dottrinale, ha investito, cioè si è fatta carico di problemi di natura quotidiana, organizzativa, dell'assetto materiale della stessa comunità. E qual è il dato più conosciuto e meglio documentato sia per le fonti letterarie che abbiamo, sia per quelle epigrafiche e in generale archeologiche? È l'esistenza di luoghi di sepoltura comunitari, quelli che noi chiamiamo catacombe. Perché questo è un evento macroscopico? Ecco, perché noi appunto dobbiamo interpretare tutto il secondo secolo, i primi decenni del terzo, non solo come un passaggio da una forma presbiteriale a una episcopale, ma come un passaggio da una struttura, da un gruppi di cristiani estremamente diversificati e frammentati, a una comunità vera e propria, cioè da piccoli gruppi a un grosso che costituisce davvero una comunità. Ecco, tutto questa evoluzione nel cambio di governo è stata anche un'evoluzione dalla pluralità e frammentarietà di gruppi a una comunità davvero unitaria. E questo non lo si poteva semplicemente fare solo sul lato liturgico, lo si doveva fare anche sul lato di aspetti non meno incidenti della vita dei cristiani. E nel mondo romano due erano in particolare: il matrimonio e la sepoltura. Nelle sepolture, le sepolture erano tutte nel suburbio, cioè tutte attorno alla città. Generalmente nel secondo secolo, cioè i cristiani si sono fatti seppellire nei luoghi usuali di sepoltura, all'interno di piccoli possedimenti o di piccole aree con i propri congiunti e i propri familiari. Credenti o non credenti, non c'era assolutamente differenza. Ognuno si andava a fare. Veniva seppellito, diciamo, insieme ai propri congiunti, insieme a chi gli concedeva un luogo per la sepoltura. Ma dalla fine del secondo secolo, e poi diciamo per tutto il terzo, per ragioni che noi nel particolare non conosciamo, si manifesta la necessità dei credenti in Gesù di adottare delle aree specifiche per tutta la comunità. Per tutta quanta. Quindi quelli che prima erano stati seppelliti indifferentemente nelle aree pagane, ecco, con questa prassi a un certo punto si decide di interrompere le cose e di passare a forme di sepoltura a carattere comunitario, in modo che i membri della comunità, non solo in vita, ma anche nella morte, anche in attesa, diciamo, della resurrezione, condividano lo stesso luogo. Questo tipo di passaggio poi è stato fatto anche, diciamo, in forme che potremmo dire di carattere egualitario. Perché oggi per noi, insomma, in questo costante presente, queste cose un po' forse hanno perso di significato, però per gli antichi, nella loro, diciamo così, lotta titanica per l'eternità. Il luogo della sepoltura è stato sempre qualcosa di importante. Noi abbiamo un sacco di iscrizioni in cui c'è scritto: ecco, io questa tomba me la sono fatta preparare io stesso da Dio. Insomma, loro lasciano memoria anche di questo. Quindi loro attribuivano un enorme significato. Però questo che cosa comportava? Comportava che chi ha apparteneva a un livello sociale molto alto e poteva permetterselo, aveva sepolture di eccezionale livello. Altri avevano semplici inumazioni, magari con una lastrea marmorea dove c'era scritto il proprio nome, e i più poveri neanche quello. Qui invece si decide di fare altro, cioè si prendono determinati luoghi di terreno e si decide di utilizzarli in maniera intensiva e in maniera egualitaria, cioè una volta ovviamente occupato il livello di superficie, si incomincia a scavare sotto, quindi si crea un primo piano, poi quando viene occupato il secondo piano e così via, con sepolture tutte uguali, in modo che come si era fratelli in vita e tutti uguali davanti a Dio, altrettanto lo si sarà anche in morte. Non è vero che i cristiani si radunavano nelle catacombe per sfuggire alle persecuzioni. Assolutamente no. Diciamo, chi visse le catacombe poi, già alla fine della tarda antichità e ovviamente anche oggi, alcuni luoghi sono stati resi praticamente accessibili per visite, un fenomeno che già si era diffuso nella tarda antichità, perché noi siamo a conoscenza di veri e propri itinerari che dovevano, insomma, aiutare i pellegrini visitatori nell'esplorazione di queste aree. Ma dobbiamo tenere presente che queste strutture furono davvero strutture esclusivamente dedicate alla sepoltura dei membri della comunità. Non era proprio materialmente accessibile, non era proprio materialmente possibile, diciamo, rifugiarsi lì. Le uniche aree davvero accessibili sono state ovviamente quelle in prossimità delle scale d'ingresso. Quelle sono state le uniche aree accessibili. Allora, dicevo che quindi questo livello di compattamento da piccoli gruppi a un solo gruppo si manifesta per tutto il secondo secolo, i primi decenni del terzo, a tutti i livelli, gerarchico, dal collegio di presbiteri al un vescovo che è a capo di tutti, liturgico, per una selezione di tante diversità di tante diversità liturgiche in funzione di una sola. Dottrinale, perché c'erano tante posizioni anche su chi era Gesù e qual era, come si spiegava il suo rapporto con Dio Padre. Anche lì c'è stata una selezione. E poi c'è stata una selezione su aspetti che non interessavano, che interessavano davvero tutti, perché questioni dottrinali potevano interessare solo quei fortunati in grado culturalmente di affrontarle. Ma la stragrande maggioranza dei membri della comunità ovviamente erano toccati da ben altri problemi. Uno centrale di questi, per le preoccupazioni che ho detto, è stata proprio la sepoltura. E proprio per il fatto che si è salvata tutta questa documentazione sottoterra, noi ci rendiamo conto davvero della rivoluzione di mentalità che c'è stata all'epoca, no? Quindi dicevo, sepolture tutte uguali, il che già contraddiceva con una prassi romana completamente diversa, ma addirittura di più. Per tutti i primi decenni, chi visita anche oggi le catacombe, se ha la fortuna, diciamo, di trovarsi una iscrizione di committenza cristiana dei primi decenni del terzo secolo, ecco, non troverà iscrizioni dove ci sono lodi del defunto, dove si dice quali siano stati i suoi meriti in vita, che cosa abbia fatto e così via, come le grandi iscrizioni normalmente di committenza romana pagana. Qui invece normalmente troviamo solo il nome personale, in modo che il defunto sia ricordato nella pura individualità, insomma, come membro della comunità. Ecco, questa ideologia è un'ideologia davvero che ha teso a compattare tutte le anime del cristianesimo a Roma, che soprattutto si manifesta nei primi decenni del terzo secolo e che uno studioso contemporaneo, un mio collega, insomma, Carlo Verletti, ha definito l'ideologia dell'Arca di Noè. Per quale ragione? Perché uno di questi vescovi che ha fatto davvero la svolta decisiva, prima abbiamo detto Vittore, vissuto intorno al 180-190, poi c'è stato Zefirino, che ha avuto un episcopato significativamente lungo, fino al 217. E poi c'è stato Callisto, questo vescovo che noi ricordiamo proprio perché una delle catacombe ha il suo nome, la catacomba principale dei cristiani a Roma in questo periodo. Ecco, questo personaggio, a quello che ci risulta, ha incarnato più e meglio di tutti gli altri lo sforzo che durava ormai da vari decenni di unire tante anime così diverse in un solo gruppo.